Carlo Genta e Pierluigi Pardo. It's ma... time is fleeting. Madness takes its toll. But listen closely. Not for very much longer. I've got to keep control. Con una mano dice Pirlo, calcio di rigore, calcio di rigore. Pallone tagliato sul secondo palo, Caseret, c'è un abbraccio, calcio di rigore. Calcio di rigore per la Roma, fallo su Totti. Jump to the left. Vidal. Vidal è fuori gioco. Fuori gioco su questa palla perché è proprio... è davanti al portiere. Sanno però che è uno dei primi 5 arbitri all'europeo. Dopodiché valutare nei dettagli la prestazione Rocchi è compito del designatore, come ha già fatto e come farà. Io mi sono confrontato con la UEFA e anzi ci siamo sentiti a lungo proprio per parlare di questo tema e devo dire che specialmente la FIFA che ha gestito Rocchi anche nelle ultime designazioni, è stato detto questo, che gli episodi che si sono verificati sono tutti episodi al limite, non catalogabili come errori, sono episodi eclatanti che a distanza di giorni, neppure mezzi tecnologici se vogliamo, sono riusciti a chiarire il centimetro dentro, il tocco, quant'altro. In sostanza la cosa che invece di più mi amareggia è che ho detto che praticamente in Italia siamo un po' così, siamo italiani, perché in un altro paese probabilmente non si sarebbe neppure parlato di arbitraggio. Ma ragazzi, ma stiamo scherzando? Ma una settimana dopo, ma dopo che ci siamo massacrati quello che volete voi? Ci siamo massacrati quello che volete voi per una settimana con Juventus Roma, vabbè. Ho già parlato Nicky, il capo degli arbitri dice no, tutto a posto, tutto bene, però io vi licenzio tutti, anche licenzio anche voi ascoltatori, perché non esiste adesso, oggi, in questo momento, poi se volete lo facciamo, anche con Pier D'Alecco che mi scrive, quel corrotto di Nicky non si smentisce mai, il pesce puzza sempre dalla testa, eccetera, eccetera, eccetera, vabbè, no. Questo è lunedì, calcio fermo, aspettiamo la nazionale stasera, ma questo è lunedì che viene dopo la domenica senza campionato, viva Dio, ed è diventata la domenica dei mondiali. Aria fresca dalle finestre dello sport dopo lo smog di Juventus-Roma e subito ta, zaffata di smog da Franco Piantanida e compagnia cantante. È stata la domenica del mondiale, il primo iride della storia della Mercedes, e questa sembra davvero una barzelletta, però è così, il secondo iride consecutivo per il cabroncito Marquez, ma era solo questione di tempo e di attesa per un'altra gara che comunque è stata bellissima. Ma poi c'è anche, poi il dottor Piantanida ci illustra tutto, l'inno a stelle e strisce nel cielo di Milano per la pallavolo femminile, bagnato dalle lacrime azzurre per il sogno che è diventato alla fine di legno. Andiamo nell'ordine che volete, 800240024, io un mio ordine ce l'ho in testa e partirei dalle tre stelle, dalla stella a tre punte che ha avuto ieri a Mosca la benedizione dello zar Putin. L'ultima curva e poi andrà a prendersi la bandiera a scacchi Lewis Hamilton per vincere la nona gara stagionale, la 31esima della carriera, come Nigel Mansell, il pilota britannico più vincente della storia della Formula 1, completa con la doppietta, la nona di questa stagione, il trionfo di questa giornata, la Mercedes che conquista il titolo costruttori dopo la Red Bull, la Mercedes sul trono del mondo. Awesome drive Lewis, awesome drive mate, absolute masterclass. Congratulations to the team on the Constructive Championship, great job man, history in the making. C'è stato questo piccolo errore alla prima curva, poi hai fatto una grande rimonta. Abbastanza grosso anche l'errore, Brutto, sì, è stato. E poi non c'era bisogno di farlo, cioè era abbastanza facile in teoria la situazione, perché io ero dentro e era mia la curva, però purtroppo mi sono completamente sbagliato. Pensavo che era finita la giornata, che non arrivo nei primi 10. Però vabbè, ho provato, ho continuato a spingere, guidando in un modo che sapevo che dovevo risparmiare le gomme al stesso tempo. E poi sì, ho avuto una grande macchina oggi e grazie a quello sì, sono riuscito a tornare. Dunque, adesso, oggi Pardo non c'è perché, come sapete, è convolato a Giuste Nozze, quindi in questi giorni si prende un po' di riposo, giustamente, me lo prendo anch'io volendo, 800240024, però il mio interlocutore, uno dei miei prediletti, è già in linea, so che è veramente appassionato della rubrica, è un cultore della materia traffico, gliela facciamo sentire subito. La cosa più importante, Jules, sicuramente in queste 3 settimane speriamo di arrivare a Austin e fare qualche intervista con qualche buona notizia, buona risposta. Sul mio futuro non è una priorità adesso, è da 2 o 3 mesi che è già tutto deciso, la mia testa si sta andando tutto bene nella direzione che voglio, e quando sarà il momento prenderò la decisione migliore per il mio futuro e per il futuro anche della Ferrari, perché in tutte le decisioni e le scelte che ho fatto in tutti questi anni la priorità è che la Ferrari venga al top, perché è quello che merita una grande squadra come questa. E finalmente dopo Alonso riesco a parlare con il mio amico Leo Turrini. Ciao Leo! Volevo dire una precisazione, siccome ho sentito il traffico. Ti volevo. 16 chilometri di coda sulla Vigevanese. No. No, questa volta c'è l'ex presidente Montezemolo con la multipla. Nel primo giorno, non più da leader discusso del cavallino, è andato per distrarsi a fare un giro con la multipla metano, auto di servizio che Marchionne gentilmente gli ha concesso di usare ancora per un anno, e la macchina è andata in panne come se fosse la F14T. Quindi, amici che siete al volante sulla Vigevanese, non prendetevela, Montezemolo pur sempre vinto 118 sì. Gran premi su 397 partecipazioni, 8 titoli costruttori, 6 mondiali piloti, quindi quando passerete a fianco a questa multipla metallo non dategli una mano con lui, ecco. Come andiamo, caro gente? Tutto andiamo bene? Adesso che ti sento, sì, perché oggi, allora, oggi giornata prima, tragedia. Voglio darti una notizia, dimmi. Allora, sai che no, ma dimmi cosa ci andava a cosa ci andava a fare Montezemolo sulla Vigevanese? No, adesso è un uomo libero, sì, ma sulla Vigevanese è un esodato. Vale. Allora voi dovete capire, vale. Con 29 milioni di euro di liquidazione, ma è pur sempre un esodato l'avvocato Montezemolo. Il treno suo non ha una linea lì, e lui era andato a vedere come procedono i lavori. Però Corbano è finito sulla Vigevanese e la multipla si è rotta. Però volevo dare un'altra notizia, siccome ti ascolto sempre. Sì. Marchionne farà grandi innesti in Ferrari, e Nicky è uno di questi, perché l'avete fatto ascoltare prima. Secondo me potrebbe anche cambiare mestiere Nicky e venire a dare una mano. Ma non doveva venire Conte, scusa? No, quello era Lotito che, come tu sai, si infila dappertutto, no? Notoriamente uno si gira, no? E vede Lotito dal Papa piuttosto che alla Casa Bianca o sulla panchina degli azzurri. Ecco, Lotito potrebbe essere il team manager della Ferrari nel 2015. Sì. Mi do anche questa dritta con giubbottone rosso, con giubbottone rosso e stemma del cavallo, col giubbettino lì, no? Il cavallino, Lotito lo vedo sempre meravigliosamente in qualunque sua versione, che parla in latino e dice Vettel seme l'inanno licet insanire, hai capito? Oppure Raikkonen repetita Juvent, no? Cioè, non sarebbe meraviglioso lo titolo a Ferrari insieme a Nicky, ecco. Una tragedia completa. No, ma parlami invece di, a me ha fatto impazzire l'immagine di Vlado Putin, lo zar che fa da paggetta alla festa della stella a tre punte. Guarda, io devo dirti una tre punte cosa, che non sono che quelle che Berlusconi vuole in campo tutte le domeniche, certo, ma sono tre ma punte. So che tu sei milanista e quindi non voglio inserire, lo sanno tutti che tu sei milanista, ma non è vero. Ma va bene, ma io tengo del Sassuolo, Torrini, che dici? Io tengo del Sassuolo. Allora il discorso è questo, lo dico a tutti gli automobilisti in coda dietro a Montezemolo sulla Vigeventina: chiedetevi quanti soldi Putin ci ciuccia con le bollette del gas. Sì. Perché il gas arriva e quindi, da là. E quindi il Gran Premio l'abbiamo pagato noi. Aspetta, ecco, contribuenti. Abbiamo pagato noi, avremmo avuto diritto a un tracciato che fosse decente, sì, che somigliasse a una pista da Gran Premio, perché veramente ieri la Formula 1, tranne Raikkonen che non corre ma cammina, è stata fatta correre su un circuito che era una cosa, devo dire, imbarazzante, cioè, La verità purtroppo, caro Genta, lei che è un maestro, insomma, che diventerà direttore di Radio 24, può capire la profondità del mio ragionamento, è che ormai lo sport a livello globale è dominato dall'ossessione del business, no? Sì. Quindi dove hanno i quattrini si può fare tutto, non vogliono fare un mondiale di calcio in Qatar con 60 gradi all'ora. Sì, ma tanto no? Lì non ti preoccupare che non ci vai a fare un mondiale in Qatar. Benissimo, la Formula 1 invece ha soci in una specie di hangar, un parcheggio all'aperto, c'è andata. Eccleston ha già annunciato che correremo persino in Azerbaigian, io non oso pensare cosa sarà il circuito a zero, no? E in compenso però non andiamo più a Imola, non andiamo più a Magny-Cours, certo. Abbiamo di fatto già rinunciato alla tradizione, alla cultura dell'automobilismo. Poi quando arriviamo in Bahrain, hai capito, Abu Dhabi, quest'anno ultima gara, ci sono quattro beduini, perché tutto il resto del popolo se ne si trafotte completamente, ma beduini in transito con i dromedari, anche loro bloccati dal traffico, perché molte Zemola Abu Dhabi aveva aperto il Ferrari Park, che secondo me Marchione chiuderà l'imperio, no? Sì. E quindi a volte anche lì rimane a piedi con la multipla e i beduini con i dromedari sono bloccati. Senti, insomma, è una situazione molto delicata. Molto, molto delicata, ma adesso fammi un discorso sociologico. Dimmi, o psicologico, che, su che è, no, Alonso è la tristezza della separazione in casa, cioè come allora, tu insomma, guerra fredda tra i coniugi, no. Sai che devi stare lì fino a quando l'avvocato ti dice che tutto è a posto e puoi abbandonare il tetto coniugale, allora, è una roba da stringere il cuore. Sai che queste cose capitano anche a coppie giovani che si sposano a Las Vegas, io ne conosco una, ma immagino anche a te sia capitato. Poi questo un giorno la chiariremo per i radioascoltatori. Allora, è normale che dopo 5 anni, che purtroppo non sono stati accompagnati dal successo, Fernando, che ha dato come pilota il 110%, questo gli va riconosciuto, non abbia più la pazienza, la voglia di aspettare, perché la Ferrari è, al di là della multipla metà di Montezemolo, in una condizione tecnologica di grave ritardo. È impossibile immaginare che la Ferrari possa lottare per il campionato l'anno prossimo. Sì. Forse se tutto funzionasse potrebbe vincere una qualche gara, ma insomma è molto indietro. Allora ci sta che in questa situazione, in queste condizioni, un matrimonio si sia usurato. Ma non discuto. Alonso sogna di essere chiamato dalla Mercedes. Adesso noi qui dobbiamo essere come Nicchi, no? Molto obiettivi, voglio dire. Allora, come Nicchi, molto obiettivi è una contraddizione in termini, bravo, e tu lo sai perfettamente. Ma io faccio per provocarti. Allora ti voglio dire questo. Hamilton nel cuore dell'estate ha detto in Mercedes: io ho ancora un anno di contratto, non accetto di discutere il prolungamento, perché era il periodo in cui sembrava che Rosberg fosse il cocchino dei tedeschi, no? In quel momento Alonso ha capito che è possibile, anche se non è probabile, che il nero, soprattutto se dovesse farcela, laurearsi campione, e ce la farà, dia un taglio secco e chiuda, ed è andato ad offrirsi a Stoccarda. E guarda, stai attento, ha fatto benissimo, perché tutti i piloti che si considerano grandi cercano la vettura migliore, ma da sempre, chiaro, perché i piloti sono i primi a sapere, contrariamente a noi che siamo il popolino, che il 95% del risultato dipende dalla monoposto. Tu ieri hai visto Rosberg, l'hai fatto sentire, no? Primo giro fa un errore, riparte, è ultimo, ha un missile sotto il sedere, è arrivato secondo. Cioè con la Mercedes quest'anno non è che vinceva il mondiale Montezemolo con la multipla Metano, ma io e te ci andavamo vicini, capito? Perché quando una vettura ha una tale supremazia, allora è normale che Alonso speri di essere chiamato in Mercedes. Quindi tu dici uno scenario possibile è il caraibico che vince il mondiale e vince il mondiale, proprio potrei scommettere, potrei mettere la mano sul fuoco, anche se la mano sul fuoco non metto per niente, per nessuno. Questo però trascuri il briscolone. No, no, no, no, fa niente. Anche col briscolone vince il Caraibico. Posso descrivere l'ipotesi? Perché noi in Formula 1 stiamo con una canzonissima di Pippo Baudo e Tony Sant'Agata 40 anni fa, non ci neghiamo niente. Sì. Allora, adesso il nero ha 17 punti di vantaggio su Rosberg. Sì. Metti che vinca le prossime due gare con Rosberg secondo come ieri, arrivano all'ultima gara che Hamilton ha 31 punti di vantaggio su Rosberg, no? E 11 vittorie in campionato su 18 gare, e se all'ultima corsa Hamilton fora, e Rosberg vince, campione del mondo Rosberg. Sì, va bene, siamo alla follia, al campo delle ipotesi. Però per tornare al tuo ragionamento, ripeto, è normale tra Alonso e la Ferrari, non è che sia un litigio, non è che sia una cosa, è semplicemente la stanchezza di un rapporto che poi possiamo discutere nell'infinito, non ha dato gli esiti sperati. C'è una cosa buona in questa vicenda in sé triste, che con l'addio di Alonso, perché è Alonso che ha staccato la spina, se la Ferrari avesse sostituito Fernando con un pilota non affermato, da Carlo Genta al tuo amichetto Pardo, scendendo giù fino a Nicchielo Tito, tutti avrebbero detto: ah, la signora in rosso ha perso il potere di seduzione, ah, non ha più appeal, ah, si deve affidare al primo che capita. Ecco, diamo atto a Marchionne, che da oggi è presidente col suo maglione, se non altro ingaggiando Vettel ha dato la dimostrazione che c'è ancora qualcuno con 4 titoli mondiali in bacheca che è disposto a scommettere sul futuro del cavallino. Tra l'altro Vettel ha un vantaggio, caro gente, lo dico anche per Barisoni, che poi dopo ci darà in diretta il collocamento di Chrysler a Fox, certamente, a Wall Street, che Vettel, contrariamente a Fernando, può permettersi di aver pazienza perché ha vinto 4 mondiali. Ma è chiaro, può andare lì col cuore leggero, anche pronto a perderle, a prenderle. Ormai lui il suo briscolone se l'è già giocato con la Red Bull, perché quando mai Vettel, non mi stancherò mai di dire che 4 titoli mondiali, bravissimo pilota, però sono un falso storico. Leo, ti ringrazio, è sempre bellissimo. Io ringrazio te, Barisoni, e spero di continuare a ascoltare notizie dall'Argentina, perché se Montezemolo non si muove da lì, bisogna che io bisogna che interveniamo, precipiti con un carro ACI, qualcosa dobbiamo fare, perché Marchionne non muove più un dito per lui. Se possiamo fare qualcosa anche noi in diretta, o può fare qualcosa chi ci ascolta, 800 24 00 24, organizziamo una rete di soccorso. Io vi aggiorno in diretta quando arrivo. Ciao Leo, un abbraccio. Un abbraccio, ciao. Ciao Leo Turrini. 800 24 00 24, un sacco di gente vuole già parlare di Nicky. Va bene ragazzi, poi lo facciamo, poi parliamo di Nicky, parliamo dell'intervista a Berlusconi, parliamo della nazionale di stasera, di tutte queste cose, ma intanto mondiali. Respiriamo questa aria fresca che è entrata dalle finestre ieri. Borsa. Ecco che torniamo, 2 ore insieme come ogni giorno, 800 24 00 24, per far sentire come ogni giorno la vostra voce, le vostre opinioni, a schema libero, come sempre. Stefano, provincia di Firenze, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio tanto per avermi convocato, l'ascolto tutti i giorni. Grazie, grazie. Detto questo, io mi scuso del ritardo, volevo intervenire la settimana scorsa, non mi è stato possibile, ma volevo intervenire sulle dichiarazioni di Totti e della società della Roma a riguardo della Juventus. Non mi sembra che sia un pulpito molto eccelso quello di signor Totti, dei suoi pensieri della Juventus. Io sono juventino, premetto, però voglio dire dovrebbe giocare in un altro campionato, dovrebbe qui e di sotto e di sopra, ma questo signore ci ha fatto vergognare davanti a tutto il mondo, indossando la maglia della nazionale dell'Italia, sputando addosso a un avversario, che è la cosa più sudicia e vergognosa e sporca ci possa essere. Stefano, questo signore dovrebbe stare zitto. Non credo, perché ha difeso la sua squadra, i colori della sua squadra. Stare zitto mi sembra tanto. Possiamo discutere sull'opportunità delle sue parole, e secondo me da quel punto di vista erano opportune, nel senso che si è sentito danneggiato, ha messo la faccia, ha detto il suo pensiero, poi c'è stato il comportamento del resto della Roma, a cominciare da Garcia, che è stato totalmente diverso. Ma Stefano, lei è convinto che un discorso di questo tipo, ad esempio, la butto lì, possa valere anche per Zidane? Per Zidane, che in una finale mondiale rifila una testata, possiamo discutere sulla grandezza di Zidane, oppure sono tutti dei figli di buona madre e tutti da mandare al rogo calcistico e all'oblio? Mi dica lei. Mi perdoni tantissimo, però una testata credo sia molto ben diversa da uno stucco ricevuto. Io la salivo ad un'altra persona. Sul fatto che sia una schifezza totale, sono d'accordo, sia il gesto più volgare in assoluto. Abbiamo avuto esempi, ma insomma, non è neanche divertente pescare nel letamaio del calcio, ma a me vengono in mente anche immagini di Frankie Rijkaard che sputa sulla testa di Föller in Mondovisione in un Olanda-Germania dei mondiali del 90. Insomma, di episodi di questo tipo in cui grandi campioni hanno perso la testa, hanno fatto qualcosa di orrendo. Si tratta chiaramente di giocatori suscettibili, perché mai credo avremmo visto, che ne so, Paolo Maldini sputare in faccia a un altro, però di episodi di questo tipo ne abbiamo un'ampia collezione, abbiamo un'ampia raccolta. Dunque, dire in valore assoluto quello è un bastardone e deve solo stare zitto perché ci ha svergognati davanti al mondo, a me sembra tanto, mi sembra troppo. Mi sembrano dichiarazioni e opinioni che lei, Juventino, ha diritto di conservare ed eventualmente di coltivare, però non mi sento di farne un valore assoluto. Gerardo, provincia di Vicenza, buongiorno. Buongiorno, dottor Genta. Salve, dica. Salve, ho sentito oggi la dichiarazione del responsabile degli arbitri, Nicchi, mi sembra che si chiama. Io è una cosa che già pensavo da tempo, adesso sta dichiarazione mi ha dato l'input per intervenire. Qua si tratta sempre di millimetri fuori gioco o in gioco, si tratta sempre di un pallone che finisce sulla linea, dentro o fuori, e sono tutti interventi difficili da valutare. Però dico io, è possibile che questi interventi, queste valutazioni difficili vadano sempre in un certo senso e mai contro quel senso, e questa è la cosa che dà fastidio secondo me a tutti quanti. Sì, anche perché quel senso è sempre monitorato, no? Cioè la soglia di attenzione è molto alta, poi capita anche ad altre squadre, ad esempio l'episodio del Cesena che abbiamo citato la settimana scorsa, era abbastanza clamoroso, però quando gioca la Juventus c'è una soglia di attenzione che è estremamente elevata, c'è una enorme sensibilità da questo punto di vista. E poi che cosa vuole che le dica Gerardo? Il domandone è: ci crediamo o no? Crediamo che sia buona fede o pensiamo che sia mala fede? Perché possiamo fare le vergini e dire ok, no, noi crediamo soltanto alla buona fede, non c'è mai stata mala fede, non ci sono mai state scorrettezze sportive, eccetera. Invece abbiamo le prove del contrario. Dal 2006 in poi credo che l'età dell'innocenza sia perduta, quindi ognuno può tenersi il comportamento, l'atteggiamento, il pensiero che vuole da questo punto di vista. Non mi sento di condannare nemmeno questo tipo di opinioni. Però il vero problema, ne abbiamo parlato en passant la settimana scorsa, è nel modo in cui noi italiani abbiamo... insomma, recepiamo l'errore, facciamo una gran fatica a metabolizzare l'errore, e quando capita, soprattutto se c'è di mezzo la Juventus, se ne parla per giorni, anni, settimane. Oggi io, a dire la verità, ho tentato e vorrei parlare di altro, perché in una pausa del campionato abbiamo di fronte la vittoria della Mercedes, il mondiale di Marquez, una gara meravigliosa quella che ha incoronato Marquez, e Valentino Rossi che è tornato competitivo al massimo livello, e con lui la Yamaha, con lui Lorenzo che tornato a essere l'uomo da battere, potessi allungherei di 4-5 gran premi ancora questo mondiale, cosa che però non è possibile. Abbiamo di fronte, guardate, poi voglio parlarne, il mondiale di pallavolo femminile, perché oggi c'è Repubblica che apre i suoi servizi sportivi con una bellissima colonnina di Emanuela Audisio che si intitola "Un altro sport è possibile". Vi leggo le prime battute. Shakespeare in sport è meraviglioso, si attira, si tira dentro, ti fa soffrire, muri e respiri. L'Italia del volley donne è quarta nel mondiale in casa, ha perso con Brasile e Cina, ma ha vinto perché ha coinvolto, per pulizia di sentimenti, per tentativi di riscossa delle bisbetiche domate, perché lo sport, quando ti dà la vita, se ne frega di appassire e di morire. Sono parole molto romantiche, molto belle, però abbiamo di fronte l'esempio di questo mondiale femminile che ha registrato dei record di pubblico, dei record di audience, di passione, di interesse mostruosi. Siamo qui ad accapigliarci di fronte agli episodi di domenica scorsa, ma non voglio fare della demagogia, perché quelle so benissimo che le parole di Nicky interessano molti, che le parole di Totti interessano molti. Però qualche volta, ripeto, viene anche voglia quasi di respirare. Daniele, provincia di Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno a lei. Allora, sono friulano e mi dispiace vedere che ogni volta si cerca soltanto di pensare all'audience. Domenica sera, a mezzanotte e mezza passata, hanno fatto vedere il pareggio dell'Udinese grazie ad un errore madornale. Ci sono 5 arbitri in campo che non vedono errori madornali. L'Udinese sarebbe seconda. Si è parlato per tutta la settimana degli errori di Juve-Roma e non si è parlato del più madornale errore della domenica, cioè che quello poi, con l'Udinese. Che poi, Daniele, è un po' quello che stavo dicendo io, no? Ma guarda, no, il concetto è che con magari col senno di poi sarebbe da squalificare un giocatore che si tuffa, sì. Almeno quello, cioè, no, almeno quello, perché i simulatori sono i primi nemici degli arbitri e devono essere squalificati. Beh, ci vogliono delle regole. La cosa accade, ci sono delle procedure per cui ciò accade, però il discorso generale che volevo fare io è che ci sono molti episodi che costellano le nostre domeniche, non riguardano soltanto la Juventus e le partite della Juventus, il Milan e le partite del Milan, quelle dell'Inter, eccetera, riguardano tutte le altre. Il problema è che un errore come quello che citavo prima a proposito del Cesena, errori di questo tipo hanno una soglia di attenzione che è normale, forse, che è come dovrebbe essere. E invece siamo qui a parlare di Nicky, Totti, eccetera, eccetera, eccetera. Lei fa bene a sottolineare quanto dice, ma anche perché non fa altro che confermare e convalidare quanto penso io. 800240024, abbiamo ancora il traffico e poi altri ascoltatori. In questo momento non posso dire tante cose, solo che logicamente sono molto felice. Anche pure per la gente è sembrato un campionato facile, ma la pressione era là. Sì, io sempre rido, sempre sono felice, ma la pressione si sente. E dopo delle ultime gare che ho fatto qualche errore, ma questo senza il team, senza Onda, senza la famiglia non si può fare. Così contentissimo. E dai, questa notte lo celebriamo bene, che si è fatto bene quest'anno. Andavo abbastanza bene. Mi dispiace perché Jorge e anche Mark erano quel pelino più veloci e quindi non ce l'ho fatta. Mi sarebbe piaciuto moltissimo tenere il campionato aperto, ho riprovato a tornare su Marquez, ma poi stavo rischiando troppo, non ce la facevo. E quindi complimenti a Mark per la vittoria del mondiale. Dunque, questi erano, l'avete riconosciuti, Marc Marquez da ieri, bicampione del mondo, e un Valentino Rossi meraviglioso. Ieri altra grande gara, come grandissima è stata la gara di Lorenzo, in casa della Honda, insomma, da copione la Honda vince il titolo mondiale in casa sua, quello che voleva probabilmente, quello che sognava. Però in casa sua va a vincere una Yamaha e ne abbiamo due sul podio, cioè primo Jorge Lorenzo e terzo Valentino Rossi, a fare da corona a quel mostro che è Marc Marquez. Però grandissima gara, lo ripeto, non so se l'avete vista. Alberto, provincia di Vercelli, buongiorno. Buongiorno dottor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Sono molto felice per questo lunedì con poco calcio. Senta, io vorrei tanto che si parlasse di colui che ritengo forse il più grande sportivo italiano mai esistito e tutto esistente, e di ciò che ha fatto sabato scorso a Kona, Hawaii, all'Ironman, Alex Zanardi. 47 minuti, cioè 9 ore 47 minuti e 14 secondi. È un tempone, soprattutto per uno come lui. La ringrazio, ascolto per radio. Grazie. No, ma più che ringraziare me, giriamo tutto quanto ad Alex Zanardi, perché lui ogni volta che fa un'impresa di questo tipo, ogni volta che vince una medaglia d'oro olimpica come ha fatto, lancia un messaggio che è molto chiaro, molto semplice e molto chiaro. Se ci riesco io, ce lo potete fare anche voi, in qualunque campo, in qualunque settore della vita. E questo è un messaggio pazzesco, insieme a quella tranquillità negli occhi e nella voce che questo ragazzo ha sempre avuto. Ha ragione l'ascoltatore nel dire, certamente non voglio fare classifiche di valore, ma certamente uno dei personaggi più positivi dello sport al mondo in assoluto. Gianfranco Milano, buongiorno. Buongiorno Genta, parlare di Totti dopo aver sentito di Zanardi quasi quasi è un peccato, però lo faccio perché proprio devo rispondere a lei per quello che ha detto poc'anzi. Ma tutto quanto è sport, ma l'ho capita perfettamente, anzi la ringrazio perché senza le battute dove andiamo? Ci sono le opinioni che sono quelle che riguardano Totti eccetera eccetera, e ci sono i fatti che sono quelli relativi a Zanardi, qui c'è pochissimo da commentare, no? No, ma qua c'è da inchinarsi, applaudire, basta, nient'altro. Volevo dire, ma perché un capitano di una squadra, che sia Totti, parliamo di Totti in questo caso, si può permettere alla fine di una partita di poter esprimere giudizi offensivi nei confronti dell'avversario? E quasi quasi gli si dà anche ragione, è come per dire, sì, ci mette la faccia, difende la sua squadra, ma per difendere, e dopo fare un paragone con Zidane, che secondo me è improprio, perché Zidane è stato sollecitato sul campo da un avversario e si è preso le sue responsabilità e ha risposto. E beh, ma anche Totti, anche Totti è stato sollecitato da chi? A cosa ci riferiamo? No, aspetti. No, però mi faccia capire, ci riferiamo alla storia dello sputo o ci riferiamo alle dichiarazioni? Il mio parallelo era su porcate varie, tipo sputi, testate, eccetera, eccetera. Non c'entra niente. Allora, se prendiamo lo sputo di Totti, è stato un gesto orripilante, antisportivo, nemmeno il primo di Totti in carriera. Ha sempre avuto la tendenza un po' bullesca a farsi giustizia da solo, ricordiamo Calcione a Balotelli, ricordiamo tanti episodi brutti a proposito di Totti, che ne ha date, ne ha prese eccetera. Però se stiamo parlando di comportamenti in campo e di porcate assortite, allora uno mi dice lo sputo di Totti, io dico vabbè, ma allora Zidane la testata e Rijkaard lo sputo, e affondiamo le mani nella spazzatura. Se invece stiamo parlando delle dichiarazioni di Totti, allora mi dica. Dichiarazioni di Totti, credo che un capitano che si rispetti non può a fine, perché sennò ogni fine partita, ogni settimana, ognuno potrebbe offendere l'avversario deliberatamente. Se lei accetta questo qua, che Totti, solo perché Totti si può permettere di fronte a degli errori arbitrali di poter dire che una squadra deve giocare in un altro campionato o che solo perché ci sono loro io non vincerò mai, è un'offesa così grande che se ogni persona, ogni capitano lo facesse ogni fine partita, perché è normale che ci sia da quando è nato il calcio, il calcio dovrebbe chiudere domani mattina, perché però se vogliamo dei personaggi totalmente normalizzati che a fine partita se ne vanno, secondo me da prendere per buone sono le dichiarazioni e del dopo partita della Roma, sono le dichiarazioni di Garcia. Quello che dico io è che può esistere anche un personaggio come Totti che dopo averne viste tante, vissute tante, va in conferenza stampa o davanti ai microfoni e dice una roba del genere. Poi se ci sono gli estremi per il deferimento, per la squalifica eccetera eccetera, questo non tocca a noi deciderlo. Ma io sinceramente, dico la verità, non mi sono sentito particolarmente offeso dalla presa di posizione di Totti. Non sono juventino, probabilmente chi ha questa fede così radicata l'ha vissuta in maniera più viscerale, diversa, insultante, eccetera. Io non riesco a vederla in questo modo, perdonatemi voi tutti quanti, insomma. E continuo a tenermi la mia posizione, peraltro. 800240024, il numero verde, adesso Bet Corner, GR, poi torniamo insieme. Quote e pronostici. Questa sera torna in campo l'Italia di Conte, impegnata nella trasferta di Malta, azzurri a punteggio pieno e in vetta alla classifica del loro girone assieme alla Croazia. Vediamo dunque le quote SNAI per Malta-Italia in campo alle ore 20.45. L'1, la vittoria di Malta, è quotata 30, l'X è a 12, il 2 invece, con il successo degli azzurri, è quotato 1.05. Gol quotato 3,40, no gol quotato 1,27. Interessante nel match di Oslo, sempre nel girone degli azzurri, tra Norvegia e Bulgaria, appaiate a quota 3 in classifica, si gioca sempre alle 20,45. L'1, la vittoria dei norvegesi, è quotata 2,05, l'X è a 3,30, il 2 invece, con il successo bulgaro, è quotato 3,50. Impegno casalingo invece per la Croazia contro l'Azerbaigian. L'1, la vittoria dei croati che sono favoriti, è quotata 1,15, l'X è a 7,50, il 2 invece è quotato 15. Partita da tenere d'occhio invece quella tra Islanda e Olanda. L'1, la vittoria degli islandesi, è quotata 5,50, l'X è a 3,75, il 2 invece è quotato 1,60. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, a risentirci domani. Well, my God, I should know you're right, and I should know it's right to say I thank you for my days. Guarda che scende, Danny Lins a cercare l'attacco di... Cristina Chirichella, Miss Murone, la principessa di questo mondiale, ci regala il tie-break, ma noi ce lo meritiamo questo tie-break. Perché questa è l'Italia che ci piace, la nostra Italia. Inizia a palleggiare, a cercare Fegherai, l'attacco di Fegherai va giù. Il Brasile è medaglia di bronzo a questo mondiale italiano. Per l'Italia è vero peccato perché aveva fatto praticamente di tutto per recuperare giocando una grandissima partita. Esce con onore da questo mondiale, per un grande mondiale che ha disputato la squadra di Marco Bonitta. Veramente di cuore il lavoro delle nostre ragazze, partendo da Juve, dalle ragazzine, dallo bianco, dalle veterane, da tutte le nostre 14 titolari. Crescita. Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela con tutti e basta mantenere il ritmo di più fino alla fine. E sicuramente un po' di delusione c'è, perché comunque perdere semifinale e finale è un po', porta molta tristezza, però alla fine siamo entrati in campo con molta grinta e con molta voglia di fare, quindi non ho nessun risentimento su questo e sono contenta alla fine dell'evoluzione del mondiale. È un boccone amaro da mandar giù e credo che quest'Italia si meritasse di più, purtroppo il campo ha detto altro, si dice, impacchettiamo e portiamo a casa. Allora, una rapida sintesi delle ultime ore azzurre al Mondiale. Prima ho letto almeno l'incipit del punto di Emanuela Odisio su Repubblica, sull'inserto sportivo di Repubblica di oggi, un altro sport è possibile. Ho un ascoltatore, Ulisse, che scrive che bene la ragazza da pallavolo, la Diouf è un inno contro il razzismo. Non sono d'accordo su questo, credo che la Diouf sia l'inno a un'Italia che ha del grande talento e che forse mi porta a dire questo mondiale è solo l'inizio. Franco Piantanina ci ha raccontato in modo strano e da ogni dove qui con me. Ci ho provato, ci ho creduto, ci abbiamo creduto, eh? Ero da solo insieme al nostro ospite, il nostro fantastico ospite con cui tra poco parleremo, a crederci forse all'inizio di questo mondiale. Siamo arrivati fino a sabato sera su Rai 2, quindi stiamo parlando di retta nazionale, in 4,4 milioni a seguire le ragazze del volley. Carlo, presentalo, sì. Tu. Ma lo presento ricordandogli a CT Marco Bonetta, ancora Emanuele Audisio, quando scrive: l'audience non è un premio di consolazione ma il segno di rispetto verso uno sport giocato, praticato, ammirato. Ciao CT. Ciao a tutti, buongiorno. Il giorno dopo com'è? Domanda banale, lo so, ma domanda banale, ma voglio saperlo. È normale, nel senso che per chi è abituato come me a fare dello sport e a sapere che il giorno dopo ricomincia tutto, è tranquillo. Sapere di aver fatto tutto, di aver conquistato la fetta della gente, ti mette serenità. Chiaro che un po' di amarezza c'è, però insomma questo fa parte dello sport. Sì, è una nazionale credo preparata per questo mondiale, nel senso che hai unito due anime, una di giocatrici molto esperte, una di grandi talenti molto, molto giovani. Io ho detto che questo mondiale può essere solo l'inizio. Un segno molto importante è che non ho visto negli occhi tuoi, ma non avevo dubbi, ma neanche delle ragazze, un'eccessiva pressione per un mondiale giocato in casa e in un ambiente di questo tipo che in Italia non siamo abituati a vedere. Cioè non siamo abituati a vedere i palazzetti pieni in Italia. Ci siamo detti due cose prima di partire a giugno. Ci siamo detti che anche se siamo diversi possiamo giocare insieme, anche se abbiamo abitudini e pensieri diversi possiamo lavorare insieme per un obiettivo, e ci siamo anche detti che il pubblico lo dovevamo conquistare giocando con sorriso ed entusiasmo, e alla fine ci avrebbe aiutato. Quindi nessuna pressione, ma solo la ricerca di una grande opportunità, come è stata. Il pubblico ci ha aiutato tanto. Non ci ha aiutato fino in fondo, nel senso che noi dovevamo fare qualcosa in più, non è certo colpa del pubblico naturalmente, però alla fine avevamo qualcosa in meno delle avversarie, e nello sport bisogna sempre riconoscere i meriti degli avversari. Marco, tu il 18 marzo, al giorno del sorteggio, avevi presentato questo mondiale con le tre S, sì. Il sogno, il sacrificio e i sorrisi, giusto? Se non mi sbaglio. È così. Io al termine di questo mondiale te ne suggerisco altre tre. Uno è il sudore che le tue ragazze hanno versato, e tutti abbiamo visto chi è i palazzetti che hanno riempito da Roma a Bari a Milano. Il secondo è la speranza che l'effetto e l'eco mediatico, sportivo e anche emozionale di questa impresa non resti chiuso appunto nei palazzetti, ma riesca in qualche modo a trasformarsi anche in qualcosa di concreto per quanto riguarda il movimento della pallavolo. E poi il terzo, purtroppo, però, è anche semifinale, forse quella che il momento più doloroso, sei d'accordo? Sì, sono tutte esse azzeccate. Credo che le tre S iniziali, quelle di Parma, insieme alle tre S che hai detto tu, sia state un po' la sintesi di questa grande cavalcata, perché io la definisco così: una grande cavalcata con un gruppo straordinario che si è messo a disposizione, che ha accettato tante cose, non si è mai lamentato, ma ha lasciato tranquillo nelle scelte. E devo dire che sono orgoglioso di essere stato in sella, perché poi alla fine il complimento più bello me l'ha scritto un tifoso stamattina. Cosa mi ha scritto? Fuori niente, dentro tutto. Senti, ma la differenza fondamentale tra il Bonetta atto primo, che ci ricordiamo tutti con un esito differente, e il Bonetta atto secondo, che è questo, qual è? Preferisco il Bonetta 2, nel senso che ho più consapevolezza, ho più certezze, ho più tranquillità, ho più serenità, anche se sembrerebbe un paradosso, perché il Bonetta primo ha vinto il mondiale. Appunto. E il Bonetta 2 non ha vinto nulla, però mi prendo veramente questo complimento come avete un po' cominciato voi questo collegamento, cioè se può essere l'inizio di un qualcosa di più lungo. Quindi va bene, andiamo avanti così, perché il futuro c'è, e crediamo che sia un futuro abbastanza roseo. Quindi possiamo parlare di Bonetta 3, eh? Facciamo così. No. Diciamo che prosegue il Bonetta 2, dai. Un'ultima cosa, dicevi tu, il bacino d'utenza italiano è per fortuna enorme, cioè, lo sappiamo, non è una notizia nuova il fatto che la Federazione Italiana di Pallavolo abbia il maggior numero di tesserati tra tutte le federazioni sportive italiane, eccetera. Quindi grandissimo bacino di utenza per la pallavolo femminile. da responsabile del settore squadre nazionali, da capo delle nazionali italiane, qual è il messaggio che tu dai alle ragazze, a chi pratica, agli istruttori? Qual è il confine tra quello che deve essere divertimento e quando deve diventare qualcosa di diverso? Non deve mai diventare qualcosa di diverso dal divertimento. È chiaro che deve diventare un divertimento molto più consapevole, molto ragionato, molto professionale, ma se manca il divertimento manca tutto. Quello che posso dire è di prendere esempio da queste ragazze, dalla più vecchia, chiamiamola così, la più esperta che ha 35 anni, la più giovane che ha fatto 20 anni da pochissimo, che si può lavorare insieme per un obiettivo comune, ma bisogna farlo quotidianamente. E certamente il sacrificio è la prima cosa che bisogna mettere sul piatto della bilancia. Ha vinto la squadra migliore al mondiale? Sì, sì, nel senso che ha battuto nettamente la squadra, il Brasile, cioè la squadra che ha vinto l'Olimpiade, che l'aveva battuta in finale all'Olimpiade. Ha vinto la squadra che ha battuto la Cina, ha vinto la squadra che ha saputo essere la migliore nel momento giusto, ha vinto la squadra che da noi ha perso 3-0, quindi è giusto che abbia vinto loro. Ecco, e dal punto di ultima cosa, coach, dal punto di vista tecnico, come la prende, come l'hai presa questa cosa che insomma hai battuto gli Stati Uniti 3-0, la Cina 3-1 e si ritrovano in finale e non c'è l'Italia? Cioè, proprio dal punto di vista del tuo lavoro, so che è una domanda, allora, che forse fa un po' male, oppure non so. Questo, devo dire una cosa che non vorrei assolutamente possa sembrare un alibi, assolutamente, ma devo dire che la formula ha penalizzato le due squadre che sono arrivate prime nel secondo girone. E credo che questo sia un errore, perché altrimenti si fanno delle partite senza senso, cioè mettere sullo stesso piano in un sorteggio le prime, le seconde e le terze non è rispettare i valori che finora sono stati quelli evidenziati. Io credo che le prime due del secondo girone dovessero assolutamente accedere alle semifinali immediatamente e le seconde e le terze dovevano giocarsi due posti per andare in semifinale anche loro. Avrebbero dovuto giocare una partita in più, avrebbero dovuto giocare e mettere energie mentali continue, invece alla fine sono arrivate in finale loro, e credo che questo non sia certamente una buona cosa. Grazie Marco. Prego. Buon lavoro. Grazie coach, alla prossima. Grazie davvero Marco Bonetta, coach delle Azzurre. Cosa faccio? Mo mi lasci in cantina altri due anni fino a Rio 2016? Cosa faccio? No, ti mando in cantina, adesso troviamo qualcosa da fare. Non ti preoccupare, magari c'è qualche torneo regionale di ping pong. Fate le due risate, li vede tutti seri. Viene al caso tuo, non ti preoccupare, Franco Piantanida. Mauro Savona, buongiorno. Buongiorno. Com'è il tempo? Com'è la situazione da quelle parti? Non bello, perché ha piovuto e sta piovendo a ondate. Sì. Situazione? Sì, purtroppo sì, situazione non speciale. Comunque, insomma, per adesso va bene. Ascolti, mi dispiace che Bonita sia già staccato, perché volevo fargli complimenti per il campionato. E volevo chiedergli una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso, perché se questa qua è la nazionale migliore con tutte le giocatrici migliori che abbiamo, usando le più giovani e le più anziane, siamo un po' messi male come bande, perché abbiamo giocato solo con la del cuore, purtroppo, che riusciva a fare sia la fase difensiva che la fase d'attacco comunque. E poi volevo dire a lei, mi dispiace, si deve rassegnare, lo sportivo consumatore medio italiano gli interessa solo il calcio, e la prova l'abbiamo avuta domenica, perché appena finito la partita di semifinale abbiamo tagliato le interviste e tutto quanto, ha ragione, perché doveva andare in onda. Ha ragione. Bene a sottolinearlo, vero. Bravo, novantesimo minuto Serie B. Ha fatto benissimo a ricordarlo. Io tra l'altro ho ricevuto diverse mail di ascoltatori che sottolineavano proprio questa cosa, e ha ragione, certe cose bisogna dirle, bisogna che tutto sommato forse denunciarle, anche se è un parolone. Grazie Mauro. Quanto alle bande, io comunque confido nel fatto che il bacino di utenza, come stiamo vedendo la catena produttiva di eccellenti giocatrici in Italia, è in continuo sviluppo. Oh, saluto e ringrazio Alberto Cerruti, prima firma della Gazzetta dello Sport, sul calcio, non sulla pallavolo. Ciao Alberto. Ciao Carlo, buon pomeriggio agli ascoltatori di Radio 24. Molto bene, grazie. E Berlusconi come sta? L'ho visto molto bene anche lui, era tempo che non lo vedevo, l'ho visto bello carico, molto concentrato sul Milan, quasi come i vecchi tempi. Sì, c'è questa intervistona esclusiva sulla Gazzetta dello Sport di oggi, dove Berlusconi al microfono di davanti alla penna di Alberto Ciarruti chiarisce una volta per tutti, non col solito comunicato della Fininvest, che è sempre pronto in un cassetto da Fininvest ed è sempre lo stesso, esce periodicamente 2-3 volte all'anno. Non è il solito comunicato, ma la voce del padrone a dire: il Milan non lo vendo soprattutto allo straniero. Ci crediamo o no? Guarda, da come si è espresso io ci credo veramente, perché devo dire, un conto è leggere sui giornali, un conto è vedere le persone, guardare le espressioni degli occhi, del volto. Mai come questa volta l'ho visto attaccato al Milan. Ha sottolineato più volte che non venderà mai uno straniero, che gli dispiace che Moratti sia stato costretto a cedere uno straniero. Ha detto caso mai un italiano, ma non ci penso neanche, ha usato quella battuta: il Milan è tatuato sul mio cuore, non ho alcuna intenzione di fare un trapianto. Ma soprattutto la molla che lo convince a non cedere il Milan è il fatto che c'è sua figlia Barbara, sì, più che mai impegnata nel Milan, e lui per la prima volta ha detto ufficialmente che la figlia Barbara sarà la sua erede, perché alla mia domanda, Barbara diventare presidente del Milan, non ha risposto come altre volte, vedremo, c'è tempo, ha detto certamente sì, e quindi senza definire i tempi, sì, ha praticamente già ufficializzato la successione, che Barbara sarà la prossima presidente del Milan. E chissà Galliani come sarà stato contento di questa dichiarazione pubblica, dico io. Galliani penserà più tardi possibile, sì. posso capire il suo punto di vista, perché sono due anime differenti, Galliani e Barbara. Certo, e non così simili e vicine come certe volte ci vogliono far credere. Una cosa mi ha sorpreso, una delle tante cose mi ha sorpreso nella tua intervista, questo 7 che dà l'organico del Milan. Raramente Berlusconi è stato così stretto e così realista nella valutazione delle sue squadre. Scusa, ti ho sentito male, raramente Berlusconi è stato così stretto di giudizio, di voto e di valutazione, realista anche nella valutazione delle sue squadre. Un 7 in pagella a una sua squadra credo non l'avesse mai dato. Sì, e devo dire, questo ha colpito anche me, perché lui ha dato un 7 dicendo e sottolineando e ripetendo che il Milan deve ancora trovare un gioco, quindi un Milan che non lo convince del tutto, ha detto che da gennaio si potrà vedere un Milan più affiatato e quindi si aspetta molto di più da questa squadra. È singolare e indicativo il fatto che abbia dato 7 al Milan e 8 a Inzaghi, quindi vuol dire che considera Inzaghi migliore della squadra che gli ha messo a disposizione. Questo è importante perché significa che ha una grandissima fiducia nei confronti di Inzaghi, cosa che sappiamo non aveva nei confronti di Seedorf negli ultimi tempi e nemmeno nei confronti di Allegri. Sì, nei confronti di Balotelli anche, io non l'avrei mai preso, nei confronti di Tevez non mi interessava, eccetera, eccetera, eccetera. In queste cose non ha mezze misure. Ma il Berlusconi moviolista è un inedito? Fautore della moviola in campo? No, io ricordo che lui dal punto di vista tecnologico è sempre stato avanti, 20 anni fa lo diceva, veniva un po' preso in giro, ha sempre guardato avanti sugli aspetti tecnologici, quindi non è uno di quelli che si accoda adesso alle battaglie per la moviola, si rende conto che la tecnologia è indispensabile, poi bisognerà valutare in quali forme, in quali modi. D'altra parte si è già espresso Galliani in questo senso, dicendosi favorevole alla moviola, e Berlusconi in questa intervista dice al Milan siamo tutti su questa linea, quindi almeno su questo Barbara e Galliani sono vanno d'accordo. Un'ultima cosa, tipicamente berlusconiani invece è stata l'uscita delle luci del martedì a San Siro. Italia, resto del mondo, questo è veramente da Berlusconi, cioè sì, italiani, milanisti, il Milan, italiani contro gli stranieri del Milan, il martedì sera a San Siro, e si gioca questa partita Italia, resto del mondo, tutti in salsa rossonera. Sì, ecco, questo fa capire come Berlusconi nei suoi rari momenti di libertà ad Accore pensi al Milan e si diverta un po' a immaginare queste sfide, perché me le ha scritte proprio su un foglio, carta intestata, Villa San Martino, ha messo giù i nomi lui e poi ogni tanto ne cancellava uno, ne metteva un altro, e ha trovato 11 italiani da una parte, 11 stranieri dall'altra, e lui davvero per presentare questa iniziativa per portare gente allo stadio e chissà per illudersi che il Milan possa giocare di sera qualche partita, perché quest'anno il Milan è fuori dalle coppe, quindi portare un po' di luci di, non si può dire di Champions, ma un po' di luci da Coppa a San Siro per far divertire la gente. È un'idea nuova e non è un caso che Berlusconi escogiti qualche novità. Vedremo se avrà successo. Intanto è tipicamente Berlusconi. Poi vi leggo anche la formazione di Berlusconi. Intanto, prima di salutare Alberto Celotti, una battuta sulla nazionale. Conte è entrato piano in questa nazionale, tutto sommato. Stasera gioca furor di popolo Pelé, immobile, da noi non voluto la Juventus, è ormai titolarissimo, però forse adesso ci aspettiamo qualcosa di più, oltre al sudore, alla grinta, all'applicazione, all'abnegazione, o no? Ma ci aspettiamo prima di tutto la vittoria. Storicamente queste partite sono trappole, è difficile aspettarsi il bel gioco contro Malta e Azerbaijan. Io credo che Conte sia ancora in luna di miele con la nazionale agli occhi dei tifosi, e verrà giudicato come tutti a distanza di tempo, e verrà giudicato all'europeo, perché l'Italia sicuramente si qualificherà all'europeo e quello sarà il vero banco di prova per la nazionale in generale, per Conte in particolare. Grazie Alberto, grazie, grazie mille, buon lavoro. Buon, grazie Alberto Cerruti, ci fermiamo per la borsa, poi torniamo insieme. 800 24 00 24, io vi aspetto. Se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. Ricordo il risultato al Picchi, Livorno batte Trapani 6-0. Ringrazio tutti i meravigliosi ascoltatori che anche stavolta mi hanno seguito. Vi porterò, vai tranquillo Ugo, dai, vi porterò sempre nel mio cuore la nostra ultima radiocrona. Grazie Ugo Russo, la è terminata, a voi. Beh, è un momento da libro cuore nella... Così, nel salutare il collega Ugo Russo, che ieri, grande maestro, grande professionista, che ieri ha avuto la sua ultima radiocronaca per tutto il calcio, minuto per minuto, in Livorno-Trapani, ha salutato così il pueblo, il suo pueblo. Ovazione per lui, eccezionale anche stasera. Tra le lacrime. Allora, diversi ascoltatori che voglio sentire, 800 24 00 24 è il numero verde. Santo da Catania, Alessandro, Sergio, eccetera. Voglio però anche leggervi così una mail che mi è arrivata ora sul telefonino. Spero abbiate la compiacenza di far sapere al signor OP Pobba che i genovesi non sono più disposti a farsi prendere in giro da nessuno, né tantomeno da costui. Niente popò di meno di un amichevole, avete sentito prima nel giornale radio che c'è questa ipotesi di un amichevole Italia-Albania a novembre come contributo della Federcalcio. Chi saranno gli spettatori paganti? Se ce ne saranno, solo i genovesi non colpiti dalla tragedia e che comunque la beneficenza ai propri concittadini l'hanno già fatta o la faranno in silenzio come nelle proprie tradizioni. Ma è possibile che un simile mentecato possa avere la possibilità di straparlare in tale maniera? Una partita che provocherebbe solo fastidio e rabbia di chi ha già dovuto già sopportare abbastanza. La soluzione? I veri amanti del calcio ne hanno una sola: abbandonare gli stadi e le TV fino a quando questo individuo non darà le sue dimissioni. La scrive Enrico Arcadipane, un ascoltatore di Genova. Vabbè, dai, facciamo così, rimaniamo a Genova su un altro fronte un po' meno polemico. Sarà Ferrero? Senta, io ho letto che lei ha introdotto le raccattapalle donna, no? Dai! Se riesce a dire qualcos'altro oltre a dai. Ma la donna? Oh, cerchiamo di... È un omaggio! Sì, un po' faticoso, ma... Alle grandi donne! Oh, brezza! Ci stava riuscendo! Ma dai! Sonia Loren? No, ma è Sofia Loren, non le dico. Dai, Mariangela Gelato, io voglio dire. Ma non le dica se non lo sa. Per me il calcio è entertainment. Entertainment, sì. La donna raccattapalla. Ecco, raccattapalla. Per primo stop. step, forse, nel senso che è il primo. Ma io voglio una donna, sì, protagonista nello stadio. Bene, certo. 27 ore al giorno. Ne sono tre di più, ma dovreste. Mi prude il naso, c'è qualcosa che si muove nel naso. No, non ha niente, guardi, non. Beh, il calcio è un gioco, dai! Dai! Entertainment, dai! Entertainment si dice, che fatica! Beh, io confesso che a me fa più ridere l'originale rispetto a Crozza. Questa è una delle prime volte che succede nella storia, forse la prima volta che succede nella storia. Ma l'originale supera di gran lunga ogni passibile parodia. Santo, è d'accordo con me? Buongiorno. Sì, buongiorno a lei, grazie per la convocazione, signor Genta. Grazie a lei. No, volevo innanzitutto un saluto agli amici di Genova. Sono nei guai. Sì, siamo nei guai fino al collo. Ogni qualvolta piove un po'. Esatto. E poi no, volevo fare i complimenti a Conte, anche se non mi è tanto simpatico, per la convocazione di Pellè, che finalmente un CT convoca qualcuno che gioca a pallone e si dimentica magari quelli che vengono stampati sui giornali, ecco. Beh, insomma, sì, Pelé ha giocato per molti anni all'estero, un po' ai confini dell'impero, il campionato olandese, al massimo della vita, però certamente questa convocazione ad anni 29 la meritava. Vediamo se è un premio alla carriera, una medaglia al valore o qualcosa che può avere un futuro. Speriamo che faccia bene innanzitutto per lui e per la nazionale, poi vediamo. Sì. Poi volevo rispondere, se mi permette, anche se abbiamo un po' le scatole piene, dell'ascoltatore di poco fa che diceva su Totti, che giustamente ha detto delle cose non di classe, però magari qui parlando di Juventus e Roma, io non sono juventino né romanista, allora, da premettere questo, però magari alla fine la Roma perderà lo scudetto per 2 punti, ricadranno tutti su questa partita. Questo qua volevo dire, ecco, lui è arrabbiato Totti, essendo un romanista romano, parla da tifoso, parla da bandiera di quella squadra, parla da uomo simbolo, esatto. Parla a nome suo, a nome dello spogliatoio, parla a nome dei romanisti e dei tifosi da Roma, eccetera, parla a nome di un sacco di persone, compreso o forse parla a nome di se stesso, punto e basta, perché comunque molte cose le ha vissute sulla sua pelle, eccetera, da lì a dire che abbia ragione, no, da lì a metterlo in croce perché si è sentito dopo una partita di questo tipo e dopo aver vissuto diverse situazioni di questo tipo, si è sentito un po' arrabbiato, va bene, io sono propenso a concederglielo, anche perché insomma poi sono arrivati tweet da altre parti, da altre direzioni e così via, è stata una gigantesca sarabanda, però torno a ripetere, dopo partita di una gara così sentita, nel complesso, al di là di questa rabbia, di questa esternazione, è stato all'insegna dello spirito sportivo, devo dire, non ho visto pecore matte, al di là di queste dichiarazioni di Totti che ripeto, da così tendo ad accettare. Grazie, Santo. Alessandro, provincia di Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo chiedere un suo parere e anche quello di Pierluigi Pardo, se possibile, magari. Pierluigi Pardo, prossimi giorni, adesso in viaggio di nozze, non ce la fa. Secondo me, io volevo parlare degli allenatori in generale, gli allenatori delle squadre professionistiche di calcio, perché secondo me non conta più di tanto l'allenatore. Cioè contano di più i giocatori e la società. Ecco, senza andare indietro troppo nel tempo, parlare di Elenio Herrera che quando era andato via dall'Inter poi non ha più fatto niente praticamente, oppure di Trapattoni che con la Juventus aveva vinto tutto, anche con l'Inter aveva vinto, sì. Poi è andato a Cagliari, questo è un discorso lungo. A dicembre è stato ricordiamo, perché andava male, poi ha avuto rimanendo in tempi un po' più recenti. Ecco, per esempio Antonio Conte, vabbè, tanti lo ritengono un genio, vabbè, sicuramente è un bravo allenatore, non discuto, però io mi ricordo nel 2006-2007 con l'Arezzo è retrocesso in C1, allora si chiamava ancora C1. Sì, è stato anche licenziato dall'Atalanta. Sì, era il primo anno, poi nel 2009, da settembre 2009 fino all'inizio di gennaio 2010 è stato all'Atalanta. Ha dato le dimissioni. Io mi chiedo e le chiedo se fosse un genio del calcio avrebbe salvato anche l'Arezzo e l'Atalanta, ma ancora in tempi ancora più recenti, al Massimiliano Allegri. Allora fino a gennaio scorso chiamavano perché io seguo varie trasmissioni, così chiamavano parecchi tifosi del Milan, dicevano il peggior allenatore degli ultimi 25-30 anni del Milan. Sì. Massimiliano Allegri. E adesso alla Juventus è in testa alla classifica, ma per me Allegri è sempre uguale, no? Cioè, ma sono cambiate le squadre. Poi, sì, fino a gennaio aveva in mano il Milan. Alessandro, allora è un discorso molto profondo questo. Se lei mi dice che un grande allenatore senza una squadra non può vincere nulla, sono d'accordo. Io penso anche che ci siano allenatori che siano molto bravi a gestire grandi squadre, a gestire situazioni complesse, agenti, contratti, eccetera, eccetera. Continuo a pensare che fare l'allenatore di un grande club sia un lavoro profondamente diverso rispetto all'allenare in un'altra situazione. Credo che i grandi allenatori li facciano in fondo le grandi società, perché e ne abbiamo molte riprove, insomma, perché a un certo punto è la società che, quando l'allenatore è in difficoltà, deve intervenire e confermarlo, supportarlo. Ad esempio mi ricordo come aveva fatto Berlusconi con Sacchi quando fu il momento, come Mourinho non ha mai avuto bisogno di grandi difese d'ufficio. Insomma, questi sono certamente grandi allenatori, sono certamente allenatori che hanno costruito cose importanti. Poi è evidente che se un allenatore può essere bravo finché vuole, ma se non ha la squadra non va da nessuna parte. Quanto alla percentuale di incidenza dell'allenatore sugli esiti, i risultati delle squadre, ma a me sinceramente questa è sempre sembrata aria fritta. Traffico, poi torniamo. Questa è una squadra che se l'è giocata a viso aperto, è strano per Malta, ha preso tre gol su tre ripartenze, il contropiede. Quindi io penso che con noi sarà una partita su di noi, sull'avversario, e quindi dovremmo fare attenzione. Ho parlato anche con i ragazzi, perché non dimentichiamo che Malta è stato avversario nelle qualifiche mondiali. Se vi ricordate la partita come è stata qui 2 anni fa, dove Gigi ha parlato anche un rigore. Quello è un bel esempio, magari qualcuno se la va a guardare. E di anticipo, ecco. È uguale, non è cambiata per niente, è sempre lui, pieno di orgoglio, pieno di carattere, pieno di voglia di vincere, quindi è una grande persona. La sua vita è sempre stata da 9, credo io, quindi andiamo avanti così, che sta sulla buona strada. Lui sta portando avanti, l'ho già detto prima, sta facendo un lavoro immenso, il suo ruolo è quello di dare motivazione, di dare sistemi nuovi, idee nuove, lo sta facendo, sta ottenendo ottimi risultati. È chiaro che il cammino è sempre lungo, deve arrivare avanti, comunque la strada è perfetta, è molto rosea. Questi due allenatori di questa sera, 20:45 in campo Malta Italia, formazione d'Italia, Buffon in porta, Ranocchia, Bonucci, Chiellini, Candreva, Florenzi, Verratti, Marchisio, Pasquale, Pellè ed Immobile. Questa è la formazione azzurra. Volevo leggervene un'altra, Sergio Provincia di Pavia, lei stia lì. Volevo leggere un'altra, che è quella Vergata da su foglio in carta intestata di Villa Martina a San Martino Arcore ieri, a beneficio di Alberto Cerruti. Milan azzurro contro Milan All Star, che andrà in scena il martedì sera, forse, tutto ipotetico, potrebbe andare in scena il martedì sera sotto le luci di San Siro, se a Berlusconi riuscirà questa idea. Abbiati in porta, Abate, Bonera, Zaccardo, De Sciglio, centrocampo, Poli, Montolivo e Bonaventura, attacco con Saponara, Pazzini e il Ciarawi. Dall'altra parte, Milan All Star, Lopez, Armero, Zapata, Alex, Essien, Van Ginkel, De Jong, Muntari, Menez, Torres, Ondà. Vi piacciono? Milan All Star contro Milan Azzurro, questa è l'ultima idea del Cavaliere. Allora, abbiamo sentito gli allenatori di stasera, sentiamo invece quello di ieri sera, che ha aperto con il botto il campionato di basket. Si chiama Pozzecco Gianmarco. Come giocatori sono anche bravi, come parrucchieri non capiscono un cazzo, guardate qualche roba. Oggi dire che la sentivo mi riesce facile, perché l'avevo già detto, e quindi non faccio l'ipocrita nel dire che o nemmeno esagero dicendo che è una delle giornate più belle della mia vita. Forse ci sarà qualcuno fuori dalla nostra Varese che, che penserà che tutto ciò è un po' esagerato. Non capiscono un cazzo, non vi preoccupate. Vabbè, comunque questo Pozzecco dopo il derby vinto, prima giornata di Serie A, domani ne parliamo a lungo, questa era la partita di cartello, 93-84, già una gran bella partita, e subito dopo Pozzecco si è sottoposto al taglio di capelli da parte di Robinson, che con quelle braccia, insomma, ha fatto bene a non ribellarsi. Sergio, provincia di Pavia, buongiorno. Buongiorno Genta, buongiorno. Dica. Io intervengo sulla solita polemica, purtroppo ormai noiosa, ma ce l'avevo da dire, Juve-Totti. Mm. Perché trovo stucchevole il fatto che la Juve si permetta di riprendere Totti, perché io sono milanista e mi ricordo all'epoca del primo scudetto di Conte che dopo qualche giornata la Juve, tramite portavoce come Pirlo, Marotta, Conte, Buffon, portava proprio dei veri e propri dossier in cui faceva notare che non avevano rigori, che tutti i favori erano a favore del Milan. E l'arroganza, mi permetta, juventina, è arrivata a questo punto anche ad Allegri nella polemica verso Sacchi, che io non credo avrebbe mai potuto avere e tenere un comportamento del genere fino a che rimaneva allenatore del Milan o di un'altra squadra. Però posso dire una cosa, cioè, secondo me al di là dei singoli episodi, dei singoli protagonisti, attori protagonisti o meno di tutte queste vicende, meno male che c'è un po' di dialettica nel calcio, cioè finché la dialettica rimane confinata su livelli anche di agonismo dialettico, ma di contenuto di civiltà, insomma, io non ci vedo niente di malizioso, di peccaminoso, di dossier ne abbiamo sentiti, cioè ne hanno parlato tutti, dalla Juventus al Napoli, alla Fiorentina, al Milan, all'Inter, nessuno escluso, cioè all'Inter l'anno scorso è vero, per circostanze fortuite, per la situazione del momento, per mille altre ragioni, di rigori non ce n'erano mai, allora lì si facevano i dossier, allora lì si accusava questo o quell'altro. Però quello che voglio dire è che poi ce la prendiamo tutti in maniera, secondo me, anche abbastanza smisurata. Però se c'è un po' di dialettica nel calcio, non ci trovo sinceramente niente di perverso, così come non riesco a trovare niente di peccaminoso in quelle dichiarazioni di un giocatore che è molto di più di un giocatore per la Roma, che c'è a campo dove dice tutte le volte venga a giocare qua. Sarà capitato anche a voi di dirlo, magari giocando a livelli ben diversi, ben più bassi, tutte le volte che gioco su quel campetto là, o ci danno rigore contro, o ci sono le buche, o ci menano, eccetera eccetera. È una reazione che è chiaro, ha una poi finisce per avere una dimensione planetaria, per avere delle conseguenze, eccetera eccetera, però la trovo quasi, quasi simpatica perché umana. Gianni da Milano, buongiorno. Sì, buongiorno, grazie per avermi convocato. Dica. Vorrei parlare delle nostre ragazze di pallavolo. Sì. La prima cosa che mi viene spontanea, paragonandola al calcio, se avete visto c'è un arbitro principale, se lo sapete, un arbitro, due arbitri principali e poi due con la palla, con la bandierina rossa, che dicono quale sono dentro. Se non è d'accordo l'allenatore di uno o dell'altra squadra, ha a disposizione tre challenge, si chiamano, per vedere se la palla è dentro o fuori. Ieri, stamattina, ho sentito Nicky, mi ha piazzato un mucchio di problemi per fare il controllo, eccetera, eccetera. Dico, se lo fanno in pallavolo e noi abbiamo a disposizione una Sky con 24 telecamere, non vedo dove sia la difficoltà. Oppure possiamo anche risolvere il problema, secondo me, molto semplicemente. Nel calcio c'è un arbitro principale, poi c'è un quarto uomo. Due segnaline e due arbitri di porta, ma diamogli a tutti la stessa dignità. Come fischia l'arbitro principale, può fischiare anche l'arbitro di porta e dire: no, attenzione, che questo però, è fuori. Però Gianni, però attenzione, perché tutte le volte cadiamo, adesso abbiamo finito il tempo, quindi torneremo a parlare domani. Tutte le volte cadiamo in un gigantesco equivoco. Cioè, queste sono cose che vanno bene tutte, vanno bene tutte le soluzioni, va bene la moviola, però non è che possiamo noi italiani dire: ok, noi ce l'abbiamo bisogno perché sennò non respiriamo più. Sono situazioni e sono decisioni che devono essere prese all'interno dell'intero mondo calcio, anche per non creare situazioni di totale disparità. Quindi poi va bene tutto, però non dimentichiamoci mai questo: noi abbiamo la moviola nel cuore, in altri posti non è un argomento così visceralmente sentito. Grazie a Franco Piattarini, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, Claudia Schiattone in redazione. Ci sentiamo domani dopo il GR delle 2. Ciao. Crotone, Ciano pronto alla battuta. Il sesto gol del Livorno, ha segnato Moscati. Ha segnato Siligardi, numero 26, appunto, sesto gol del Livorno esattamente al 33esimo, e dunque Livorno 6, Trapani 0 a te. E dai, passa sta palla, ma chi l'ha messa in barca? Su, vedi che finta. Ecco il tiro, che culo la parata. Funziona dall'altra parte, su. E giocate con la squadra, su. Ecco che va sul fondo, il cross. Oh, avvio dalla Migliotta, ma che è l'entrata questa? Rigore netto. Sì, poi stasera lo vediamo alla Migliotta. Torna indietro, i due si guardano. Attimo di tensione, tutto lo stadio col fiato sospeso. Vedete che sta per partire, il portiere si piega sulle gambe, la rincorsa, il tiro, gol, no, parata! La squadra fanno proprio guardini, il gioco che sta un pochino sulle fasce. Una bella partita comunque, vedete la squadra di casa che cerca di impostare delle azioni di attacco. Il tiro, la parata ancora, tiro, parata!